perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Volevo regalarti un po' di torrone stamattina. Guarda Deborah, ti ringrazio molto. Buongiorno, un intanto. Gradito ritorno, buongiorno. Però purtroppo per il torrone il dentista dice che devo aspettare ancora qualche giorno. Vabbè, io avevo così addirittura ipotizzato non vederti neanche stamattina, invece le cose sono andate molto meglio del previsto, no, sono ben contenta non di potevo condividere. Mancare, sai che oggi poi è la festa dell'imposta locale, oggi festa nazionale dell'imposta locale, perché oggi, come è noto, il 18 scadono i termini per il pagamento di IMU e TASI, ne abbiamo parlato due di denari. Mi hai lasciato in eredità anche un'imposta per te venerdì su questo tema. Ma certamente, perché è una festa che va sempre celebrata pur trattandosi di imposte locali. Quindi raccogliamoci in preghiera, questa è la settimana giusta per farlo, naturalmente, visto che andiamo dritti verso il Natale e naturalmente questa settimana è vietato parlare di temi calcistici per te. No, e anche sì, per anche i cugini rossoneri. Per via appunto di questa cosa, i denti, la lasagna mi è rimasta un po' indigesta. Però devo dire che anche a Peter Bescapè il Pandoro. Non lo vedo tanto contento stamattina. Ne approfitto per l'unica salutarlo. L'unica che festeggia quest'oggi sono io. Una volta tanto, concedetemelo, in queste giornate un po' così. Va bene, ma non dobbiamo parlare delle borse stamattina, che certamente, è lunedì, piuttosto che affrontare prima questi di parlare argomenti delle fastidiosi. Borse, adesso abbiamo il meteo borsa o la meteo borsa, qua non siamo mai decisi su dove mettere l'articolo e quale articolo mettere, ma vogliamo fare anche il sommario del tema di cui parleremo questa mattina. Ma certamente, allora parliamo degli acquisti di Natale. Sì. E sentiremo anche associazioni di consumatori, esperti, persone che si occupano di come stanno andando questi consumi, quindi con uno sguardo anche un po' di tipo macroeconomico. Esatto. Per capire se possiamo cogliere, confermare dei segnali di ripresa, ma anche evitare gli sprechi, perché questo, ohimè, è un periodo in cui qualche volta si esagera. Abbiamo anche scoperto, preparando questa trasmissione, che in realtà ci sono molte famiglie che, ahimè, devono sottoscrivere qualche piccolo prestito per fronteggiare le spese di questo periodo. Qualcuno lo fa sicuramente per così iniziative un po' meno preoccupanti di emergenza, perché c'è chi si indebita per regalarsi magari un super viaggio natalizio, qualcun altro lo fa invece proprio per, come vi dicevo, affrontare una situazione economica invece non propriamente brillante. Quindi anche di questo parleremo. 800 24 00 24, cosa vogliamo sapere da voi stamattina? Raccontateci la regola che vi siete dati quest'anno per gli acquisti di Natale. Intanto avete deciso di puntare sul budget, più di questo non voglio spendere, oppure un criterio di selezione del regalo, solo l'alimentare, solo quello utile, solo il made in Italy, o magari avete selezionato i destinatari del regalo, che so, solo bambini, solo minorenni, solo familiari ristretti, niente agli amici. Poi improvvisamente l'ultimo giorno gli amici te lo fanno e tu sei costretto ad andare a correre all'ultimo momento, certo, e a quel punto lì anche il risparmio, diciamo, soffre. È andato, insomma, tante cose. Se volete condividere con noi stamattina lo spirito natalizio che contraddistinguerà le vostre feste quest'anno, 800 24 00 24 numero verde per intervenire in diretta, o in alternativa 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo. Meteo Borsa. Allora, la meteo borsa di questa mattina la facciamo con Filippo Di Naro, direttore investimenti di Anima SGR. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, intanto faccio un punto della situazione sull'apertura di questa settimana finanziaria, che è molto buona, caro Mauro. Oh, bene. Le borse festeggiano il tuo rientro a due di denari, probabilmente. Parigi. Aspetta, muovo gli indici. Hai visto, sei un market mover. Parigi sale dell'1,15%, Francoforte sale dell'1,23%, Londra un po' più prudente, più 0,33%, sempre un po' più nervosa Londra per tutte le trattative relative a Brexit e movimenti della sterlina. L'euro, Piazza Affari più 0,73%. L'euro viaggia a 1,1785 sul dollaro. Abbiamo avuto nuovi record venerdì scorso a Wall Street, tanto per cambiare. Giornata interessante, perché ormai sempre più attenzione viene concentrata sul mondo dei Bitcoin. Partono i futures anche sull'altra grandissima, la più grande piattaforma di futures mondiale, il Chicago Mercantile Exchange. L'altro tema su cui si concentra l'attenzione, appunto, il mercato, il record di Wall Street è legato all'attesa per la riforma fiscale che dovrebbe avere il via libera da parte del Congresso americano proprio questa settimana. Di Naro, voi quale tema guardate stamattina e in prospettiva in settimana? Beh, in prospettiva stiamo guardando il Natale e soprattutto i torroni che stavate citando. quando chiacchieravate fra di voi. Però scherzi a parte, diciamo, stiamo un po' osservando quello che è l'avvicinamento alla data di votazione finale della riforma negli Stati Uniti, la riforma fiscale. C'è stata una buona chiusura venerdì, anche questa mattina mi sembra che i mercati siano buoni, ben impostati e concentrati su metà della settimana quando la riforma passerà alla Camera e al Senato americano. Pochi volumi, comunque quelli che vedremo da qui ai prossimi giorni, questo in qualche maniera condiziona anche le performance degli indici di Naro? Sì, siamo in pieno periodo natalizio. Senta, io non so cosa stia succedendo, sento un rumorino, come se lei avesse la cornetta in qualche maniera, non so, appoggiata forse in maniera strana, perché si sente moltissimo in radio, se potesse aggiustare un pochino la ringrazio. Ok, sì, diciamo che ormai i volumi sono quelli di fine anno, per cui sono molto rarefatti, i movimenti sono anche modesti, direi che stiamo avviando verso una pausa che probabilmente durerà fino all'inizio di gennaio. Mauro, hai qualche domanda per Di Naro? Ma diverse, ad esempio già Di Naro ha citato il fatto della riforma fiscale americana, però vedo che i mercati, quelli europei, sentivo prima gli indici che citavi tu, Deborah, sembrano assolutamente indifferenti al voto catalano, che pure è atteso per giovedì, quindi lì ci aspetteremo, tanto quanto Brexit è stata, insomma, e tuttora resta un motivo di nervosismo, mi aspetterei che il voto catalano qualcosa facesse, ma mi pare che non sia così. Qual è la sua opinione, Di Naro? Intanto Madrid, vi dico che è positiva, sta guadagnando più di mezzo punto percentuale. Ecco, appunto, quindi con la mia visione dei esatto, mercati infatti, è proprio prima non l'avevo data. Molto presbite. Prego, per Di Naro. No, diciamo che sì. La tensione catalana ci ha visto coinvolti, direi, per poche giornate nei mesi scorsi, però direi che le elezioni non sono in questo momento l'attenzione del mercato, in quanto non si ritiene si possa arrivare a una svolta o comunque un indirizzo verso l'indipendenza della Catalogna, per cui il mercato sta più o meno ignorando l'evento in questa fase. Infatti anche questa era la mia impressione, cioè che sostanzialmente questo evento politico non fosse di particolare rilievo e importanza per i mercati. Allora, invece, per quello che riguarda il ritorno ai temi macroeconomici, poco fa è stato diffuso il dato relativo all'inflazione dell'Eurozona, che a novembre è salita dello 0,1% su base mensile, su base annua abbiamo un rialzo dell'1,5%, ancora lontani dai famosi target della BCE, ma comunque piano piano sempre un po' su. Questo rappresenterà un fattore di, in qualche maniera, non dico preoccupazione, ma condizionamento del comportamento degli investitori di Naro? Come state osservando questo argomento in questo momento? In maniera, diciamo, attenta, nel senso che l'inflazione è un po' l'assente di questo lungo periodo di crescita delle economie, crescite sincronizzate a livello globale, quindi positive. Certamente la preoccupazione dei mercati è che dal punto di vista inflattivo si possa avere una qualche, diciamo, sorpresa, nel senso una qualche ripresa dell'inflazione, e questa ripresa possa un po' modificare l'atteggiamento dei banchieri centrali, che in questo momento è molto conciliante, le condizioni finanziarie sono molto buone. Cambieranno l'anno prossimo, Di Naro, a prescindere dalle previsioni che abbiamo fatto fino a questo momento e a prescindere dal fatto che le banche centrali hanno abituato la comunità finanziaria ad annunciare con largo anticipo tutte le misure, le iniziative e i provvedimenti di politica monetaria? Ma credo di sì, nel senso che le politiche sono già un po' tutte sincronizzate verso una restrizione, per cui un ritiro della liquidità. Ci dovessero essere dei segni di inflazione, questo movimento potrebbe accelerare, quindi la volatilità dei mercati in qualche modo salire. Sarà il tema dell'anno prossimo, molti dei suoi colleghi ce lo hanno indicato molto spesso intervenendo nel nostro programma, il tema della volatilità dei mercati sarà il grande tema dell'anno prossimo. Quanto dobbiamo spaventarci? Perché quando parliamo di volatilità noi non è che parliamo di movimenti microscopici sul mercato. Di qualche zero virgola, esatto, ma parliamo di qualcosa di più accentuato, Di Naro. Quindi voi come la vedete, come la fotografate questa volatilità possibile del 2018? Beh, una previsione semplice che la volatilità salga, perché oggi la volatilità è ai minimi storici, per cui da questo punto di vista ci si può aspettare una ripresa della volatilità connessa, diciamo, all'incertezza, per cui non è che bisogna preoccuparsi, è come un ritorno alla normalità. Oggi siamo in una condizione un po' anormale perché la liquidità è tanta, quindi i mercati sono molto compiaciuti da questa liquidità e siamo quindi in una fase un po' particolare, per cui direi che l'anno prossimo sicuramente dal punto di vista sia politico che macroeconomico qualche sorpresa o qualche accadimento potrebbe esserci, per cui una normale ripresa della volatilità dovrebbe esserci. E per quanto riguarda invece Piazza Affari, Dinaro, perché ovviamente noi abbiamo sempre questo tema delle banche nostrane con tutti i problemi di crediti deteriorati, NPL, anche la commissione delle banche insomma genera i suoi nervosismi sui mercati italiani. Questa settimana peraltro molti personaggi illustri hanno una vigilia di Natale un pochino nervosa, direi, che verranno sentiti il ministro Padoan, il governatore della Banca d'Italia, poi anche Federico Ghizzoni, l'ex amministratore delegato di Unicredit, quindi settimana ancora interessante da questo punto di vista. Sì, diciamo che sull'Italia ci sono tre temi, c'è certamente quello che avete citato delle banche e in particolare il fatto che le banche abbiano abbastanza capitale per il regolatore, questo è un tema già presente sul mercato da diverso tempo. Ci sono altri due temi, se vogliamo, uno è un tema positivo che è quello legato alla normativa dei PIR, che quest'anno ha influenzato positivamente Piazza Affari e che direi dovrebbe continuare nel corso del 2018. L'altro è un tema che evidentemente potrebbe portare un po' di incertezza, sono le elezioni politiche, che evidentemente dal punto di vista dei mercati finanziari potrebbero essere un elemento di incertezza e quindi portare volatilità sul nostro mercato. Quindi quelle italiane sì, tutte le altre un po' meno. Mettiamola così. Sì, così il piccolo stock di debito pubblico che abbiamo, noi siamo un po' più sotto i riflettori rispetto ad altri. Rispetto alla Catalogna, tanto per citare qualcosa esatto. Che diciamo siamo prima. Sotto i riflettori. Ecco qua. Grazie a Filippo Dinaro, direttore investimenti di Anima SGR, per essere stato con noi. Buona giornata e buone feste, Dinaro. Grazie a voi, buone feste a voi. Allora, Stefano da Udine ci scrive su WhatsApp, caro Mauro, mandandoci anche una foto con un cesto con tre pere dentro, natalizio certamente, desidererei porgerei i più sinceri auguri di buone feste al signor Meazza, non credo che siano nemmeno di stagione, perché, no. Per quale motivo? Io non ho cugini, quindi ho una sciarpa con scritto io non ho cugini, questo... È una battuta che capiscono solo quelli che vanno allo stadio, però ti assicuro si saranno divertiti. Stefano da Padova invece scrive: quest'anno regali a persone selezionate, alimentari di alta gamma, bravo Stefano, soprattutto Made in Italy, ed elettronica, mentre per il cucciolo nessun limite di spesa, beato lui, chissà questo sarà il figlio, immaginiamo. Immagino di sì, sarà l'erede anche se vogliamo chiamarlo così, ma vogliamo sentire subito il vicepresidente di Federconsumatori. Volentieri. Che abbiamo chiamato in causa. Alessandro Petruzzi, buongiorno. Buongiorno a voi ascoltatori. E allora, voi avete fatto, come fanno tutte le associazioni dei consumatori, come sempre, un po' un preventivo di spesa di quello che appunto di quanto dovranno mettere la mano al portafoglio quest'anno gli italiani. Avete conteggiato questi 129,90 euro. Cosa fate come negozianti? Cioè fate l'arrotondamento? Uno sconto rispetto a 130. Esatto. No, facciamo una media dopo aver sentito le varie realtà che rappresentiamo dal nord al sud e dalle aree di crisi dove ancora si fa sentire forte la posizione di mancanza di lavoro, la insicurezza che arriva dagli annunci delle aziende che rischiano di chiudere, a un minimo di fiducia nel futuro che si comincia a registrare in alcune parti del paese. Ecco, voi segnalate che dovrebbe esserci un incremento di spesa rispetto all'anno scorso del 4%, anzi 4,1%. Questo sembrerebbe un segnale positivo. I consumi domestici, i consumi interni sono ormai da anni, possiamo dire, abbastanza statici, non crescono ed è uno dei motivi per cui anche l'inflazione non si riscalda, non sale. Invece siete ottimisti su questo complessivo. Esatto, sembra una contraddizione quando parliamo di una contrazione rispetto a altri dati e poi diciamo il 4% di aumento. Siccome, come diceva lei, veniamo veniamo da almeno 8-10 anni di contrazione dei consumi per tanti motivi: la mancata rinnovo dei contratti di lavoro, la crisi, la perdita di posti di lavoro a raffica, la mancanza di lavoro per i giovani, e nonostante questo c'è una voglia, anche se selezionando il tipo di acquisto e il tipo di regalo, di spendere qualcosa di più, si sente una leggera ripresa, e da qui il 4% su alcuni prodotti. Sentivo prima il cittadino che ha mandato WhatsApp sui consumi e regali per materie alimentari, sì. Aggiungeva lei, soprattutto italiano, risulta anche a noi. Ah, ecco, senta, no, prima di lasciarle continuare la conversazione con Mauro Meazza, Petruzzi, volevo richiamare di nuovo gli ascoltatori e raccontarci un po' cosa faranno quest'anno. Quindi vi ribadisco, raccontateci la regola che vi siete dati in questo 2017 per gli acquisti di Natale. Avete stabilito un budget, avete stabilito un criterio di selezione del regalo, quindi farete solo l'alimentare, solo quello utile, solo il Made in Italy, solo l'elettronica, il cash, perché arriva pure la bustina con i soldini dentro, voglio dire, non è solamente una cosa delle donne, la mancetta. Oppure vi siete basati solamente sulla scelta del destinatario, regali solo ai familiari stretti, solo agli amici, solo ai bambini. 800 24 00 24 per condividere con noi il vostro criterio di scelta, oppure scriveteci al 349 238 6666. E allora io invece ritorno a domandarvi questi risultati, a interrogarla su questi risultati dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Ci sono delle categorie che sembrano crescere di più nei nostri consumi, nelle nostre scelte, e altre meno. Cito qua e là, ma poi completi lei, insomma, questo elenco. Pare che l'articolo da regalo più abituale in questo periodo, quindi il profumo, la borsa, il libro, sia un po' in calo, cara Debora. No, ti vedo preoccupata. No, non sono le borse che sono in calo, no. Hai detto le parole magiche per ogni donna: profumo, borsa, il terzo che erano, cos'è? I libri. Sì. Quindi no, vanno bene. Vanno benissimo. Non vorremmo mica i primi aprire... due vanno meglio. Allora, ci chiediamo invece, è così, quindi c'è una certa contrazione, Petruzzi, su questo tipo di voci? Questa contrazione lo dimostra anche la risposta delle aziende. La campagna pubblicitaria di alcune aziende massiccia sui profumi è la dimostrazione che hanno percepito una diminuzione della vendita dei loro prodotti. A noi risulta una scelta appunto per prodotti, per regali fai da te, che educano anche in famiglia e fra gli amici a un rispetto dell'ambiente, a un rispetto della capacità di riciclare, di riutilizzare le cose utili. C'è una novità che mi permetto di segnalare, che abbiamo raccolto con le associazioni dei commercianti o dell'attività della grande distribuzione: c'è un aumento oramai costante dell'acquisto online, ma c'è anche un forte aumento di chi va all'interno del negozio e vuol vedere, vuol toccare e provare il capo, per esempio, di abbigliamento. Siamo a una situazione paradossale: in alcune realtà d'Italia il negoziante è stato costretto, tra virgolette, a mettere per la misurazione del capo o del prodotto 3 euro, 5 euro, perché sistematicamente poi lo acquistano online. Ah. Esatto, quindi c'è un fatto positivo, però qui aumentano, ci permettiamo di dire, attenzione alle truffe, perché l'acquisto online appunto è una cosa positiva, è una tendenza che crescerà, ma cresce anche la possibilità per chi non è attento o non confronta bene i prezzi a eventuali truffe. La cosa positiva all'interno dei libri è che aumenta la vendita dei libri dedicati ai bambini. Prima infanzia. Questo glielo confermo, perché io ho dei nipoti che a quanto pare stanno sviluppando un piacere della lettura molto, molto significativo, per cui quest'anno ho potuto anche fare dei regali, quindi non solamente ci sono anche il giocattolo, ma... esatto, da parte dell'editoria. Senta, allora io reagisco, no. Io reagisco con la tecnologia. La tecnologia come va? Perché di solito il bene tecnologico è un obbligo in questo Natale, il telefonino, il tablet. Il tecnologico non ha la stessa attrazione che aveva gli anni passati, forse perché oramai abbiamo in ogni famiglia, in ogni casa, ognuno di noi di media a due telefoni o un computer, e quindi c'è dal nostro osservatorio una diminuzione, e anche qui l'offerta economica da parte delle aziende tende ad essere a un costo minore, proprio perché non c'è più quella rincorsa che c'era negli anni passati. C'è la ricerca della novità assoluta, ma è per pochi, non per la massa. Diciamo che ormai siamo talmente, tra virgolette, ossessionati dall'avere tutta la tecnologia disponibile che non aspettiamo certo Natale per soddisfare questo desiderio. Magari si aspetta Natale per dell'altro, ma non per questo. E se mi posso permettere, la cosa della bustina con i soldi, o meglio, il regalo con il voucher o il bonus da spendere, le gift soprattutto card per le cucine, soprattutto per i prodotti di cucina, i corsi, stanno crescendo. Ecco, vedi? Allora, quindi... allora, e invece per il menù, visto che si avvicinano anche le libagioni abbondanti di Natale, Capodanno... Il cesto di Natale con i prodotti, insomma, cosa c'è dentro? Quello è in aumento, il cesto di Natale con i prodotti soprattutto tipici, e mi permetto di ricordare che in molte realtà si continua, per fortuna, a regalare prodotti delle nostre terre martoriate dal terremoto, che sono... La produzione tipica della norcineria, e per fortuna, dico io, la solidarietà continua ad abbinare il buon gusto dei prodotti tipici del Natale con l'aiuto a quelle popolazioni. Quindi sta crescendo e si ha la sensazione che ci sia una diminuzione dei prezzi per i veglioni di Capodanno da parte di molte, molte strutture. L'ultima cosa, Petruzzi, tra un po' noi ci occuperemo di quelle famiglie che passeranno questo Natale con una condizione un pochino più di fragilità, perché saranno costrette, ce lo racconta un osservatorio, anche ad indebitarsi per fronteggiare magari spese che sono arrivate all'ultimo minuto e che non avevano considerato. Risulta anche a voi questa tendenza? Ma questa tendenza risulta, dicevo prima, che sempre più c'è in alcune zone d'Italia si sente ancora la crisi, e questa necessità o questa voglia di ripartire purtroppo è frenata da intere zone che subiscono contraccolpi enormi. In alcune zone della dorsale appenninica, che oltre che essere colpite dal terremoto, si annunciano chiusure di decine e decine di aziende perché la ripresa o il tipo di produzione è superata, lì si incontra o interroga o si prendono dati da qualunque osservatorio, sia del credito al consumo o quello delle carte di credito, si scopre che c'è una voglia di poter spendere, ma è impossibile. Tanto più che siamo di fronte a un annuncio ulteriore di aumento delle tariffe di acqua, luce e gas, per non parlare che oggi è l'ultimo giorno per pagare la tassa sulla casa. L'abbiamo già evocata più volte. L'abbiamo evocata, e poi anche... ma questo non facilita la voglia di spendere o la possibilità. Assolutamente. Certo. Allora, grazie ad Alessandro Petruzzi, vicepresidente di Federconsumatori, per essere stato con noi. Peraltro abbiamo parlato più volte dei bambini, dedicheremo anche uno spazio adesso, prima del termine della trasmissione, all'acquisto in giocattoli, per un acquisto sicuro, perché è molto importante, e visto che le famiglie italiane preferiscono molto di più, piuttosto che accontentare tutti gli amici, tutti i familiari, accontentare assolutamente i bambini, allora cerchiamo di dare qualche istruzione per un acquisto sicuro in questo campo. Detto ciò, tutto ciò premesso, tutto ciò, brava che ti sei corretta, tutto ciò premesso, cara Debora, le borse. Donald Trump e l'America, Xi Jinping e l'ascesa globale della Cina. Se ne parla nel numero 79 di Aspenia, la rivista diretta da Marta Dassù, in edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 € anziché 12 euro. Foppa Pedretti presenta Gulliver, lo stand di biancheria pieghevole. Lo apri come ti serve e ha una disponibilità massima pari a 27 metri di filo per stendere. È grande, grande, grande! Ma come grande? Hai presente la mia chitarra? Foppa Pedretti, l'albero delle idee. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. Monge, le sciatte Special Dog sono alimenti genuini, senza coloranti e conservanti. Bocconi cotti al forno, patè cremosi e crocchette con carne fresca. Auguri da Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Nel cuore della Lombardia c'è un territorio in cui vivono insieme tradizione e innovazione, origini antichissime e le migliori tecnologie. La Franciacorta, da cui ha origine il suo vino. Franciacorta festeggia i suoi primi 50 anni dal riconoscimento della DOC. 50 anni di storia e passione che hanno dato vita a un prodotto unico ed eccezionale. Franciacorta, un vino, una terra, un'eccellenza italiana. Vai su franciacorta.net e scopri Franciacorta, una storia di passione. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Sono un trader. Quando chiude Londra apre New York e io sono nello stesso istante in tutti e due i posti. Con Fineco posso accedere ai principali mercati mondiali e ho migliaia di strumenti con quotazioni, grafici, analisi e news. Tutto in tempo reale e anche da mobile. In più tanti corsi, anche online, per imparare a fare trading e migliorare le mie strategie operative. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com e Fineco Center. Fineco, la banca che semplifica la banca. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi, amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai, ai, ai. Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Una pecorella, due pecorelle. Melatonina e Valeriana Act è un integratore alimentare a base di melatonina e valeriana. Acquistalo nelle migliori farmacie e parafarmacie. Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90 euro. Due di denari. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Come preannunciato, adesso parleremo di quelle famiglie costrette ad indebitarsi per sostenere come dire, un po' le spese di questo periodo, che magari si ampliano, magari a casa di qualche famiglia la tredicesima non arriva, per cui la coperta dello stipendio è sempre un po' strettina per soddisfare tutte le spese del momento, regali compresi. Detto questo, volevamo rispondere con Mauro all'SMS di un ascoltatore che lamenta il fatto che quest'anno non potrà spendere molto perché non arriva il TFR del settore pubblico, il TFR, il TFS, appunto, il trattamento di fine servizio. Come si dice, sì, però non, è una verità, cioè viene erogato al dipendente, all'ex dipendente con ritardo, ma questo non è una novità di quest'anno, purtroppo è una novità che decorre dalla legge finanziaria varata per il 2015, quindi a fine 2014, c'è un periodo d'attesa che arriva fino appunto ai 24 mesi. Però diciamo storicamente sempre il trattamento di fine servizio è stato regolato più tardi rispetto al settore privato. Il trattamento di fine servizio ha sempre avuto delle regole differenziate rispetto al trattamento di fine rapporto, che è quello del dipendente privato, che viene erogato in tempi più brevi. Tra l'altro poi il trattamento di fine servizio viene anche erogato a rate se supera certe quote, quindi oltre al ritardo c'è anche il fatto di prenderli un po' alla volta, fino a un massimo di 3 rate per la precisione. Certo, quindi insomma capiamo la frustrazione dell'ascoltatore, ma non è una cosa arrivata adesso, quindi non è in qualche maniera in corsa, purtroppo insomma. Bisogna prepararsi, ecco, a questa circostanza. Francesca Scoppetta è uno degli ideatori del progetto Pro d'Italia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, questa associazione che adesso ci racconterà, questa organizzazione che ci racconterà adesso che cosa fa, ha scoperto che quest'anno circa il 10,5% degli italiani, ci sembra effettivamente una percentuale anche piuttosto altina, chiederà un prestito per sostenere le spese previste per le festività di fine anno, in particolar modo per coprire i costi del cenone di Capodanno, ma anche per concedersi una vacanza. Noi così di primo acchito, studiando la vostra indagine, la dottoressa Scoppetta, c'eravamo un po' preoccupati perché avevamo ipotizzato che questi prestiti fossero chiesti proprio per, come dire, emergenze finanziarie di altro genere, che ne so, mal di denti improvviso che ti obbliga a rifare un impianto perché magari ti sei così azzannato troppo torrone, insomma, troppo con torrone, troppa avidità, eccetera. Ecco. Detto questo, adesso non che sia una buona notizia dover fare il prestito per fare così il capodanno un po' più avvincente degli ultimi anni. Detto questo, ci racconta un po' meglio come avete scoperto questa tendenza e perché soprattutto la siete andati ad indagare. Allora, innanzitutto buongiorno. Anche a lei, e buone feste. E buone feste, esattamente. Allora, il progetto Pro d'Italia è l'acronimo di Progetto Debito Italia, è il nome del progetto che seguiamo con un network di avvocati in tutta Italia e riguarda la legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento. Mm-hmm. In pratica cerchiamo di dare informazioni e di formare su questa legge poco conosciuta, che invece è una grossa possibilità per chi si trova in difficoltà. Veniamo allo specifico del dato che riportava. Allora, in realtà siamo andati a cercare questo tipo di percentuale dati pubblicati da Coldiretti, e abbiamo cercato di analizzare meglio i nostri dati con l'Osservatorio Pro d'Italia. Noi abbiamo creato questo osservatorio sui numeri della crisi con i dati reali delle famiglie di gente che è in difficoltà, che si rivolge a noi tramite il numero verde, tramite i nostri contatti su Facebook e su LinkedIn. In pratica abbiamo rilevato che molte famiglie cercano di fare prestiti per i regali, soprattutto per i più piccoli, per i figli, oppure per concedersi una vacanza. Questo per non rinunciare a un tenore di vita e soprattutto per, appunto, accontentare i più piccoli. Ovviamente questo, che sembrerebbe un dato di ripresa, va analizzato un po' meglio, perché il ricorso ai prestiti, lo dico diciamo in maniera proprio chiara, non è mai una soluzione, soprattutto se si è già in difficoltà, anzi si ritorna a essere ancora più indebitati di prima. Quindi, in particolare, quando alla fine dell'anno si fanno i bilanci, bisognerebbe mirare a fare una lista di priorità, e tra queste mettere al primo posto la serenità. Magari analizzando meglio la propria situazione si può trovare una soluzione ai propri momenti di crisi, anche grazie a questa legge. Certo. E quindi lo sviluppo di questo dato ci interessava in concreto per analizzare quello che è un disagio che a fine anno emerge di più, e quindi una modalità per eliminare questo disagio non è quella di aumentare i prestiti, bensì di prendere in serio esame la propria situazione e fare in modo di poterla vedere da una prospettiva diversa, che potrebbe essere quella di un aiuto a chi si trova in difficoltà. Tra l'altro, questa legge, che è la legge 3, giusto, del 2012, sì, esatto, consente in qualche modo di poter ridurre l'entità del debito, no? Parametrarlo, diciamo, alla situazione economica della persona in difficoltà. È proprio questo il bello di questa legge: consente una prospettiva diversa perché è calibrata sulla propria situazione attuale, quindi chi ha perso il posto di lavoro, chi ha avuto problemi a causa di malattie, chi ha visto ridursi l'orario di lavoro o perché è in cassa integrazione o perché l'orario da full time è diventato part time. Ecco, tutte queste condizioni possono essere prese in considerazione e calibrare la propria attuale disponibilità a ripianare i propri debiti su quello che è l'entrata effettiva, reale e concreta della situazione nuova che si è determinata. Però non è una procedura facilissima, dottoressa Scoppetta, dobbiamo dirlo, perché effettivamente le persone che magari sono sovraindebitate per tutta, devono esserlo per poter esperire questa via, appunto, devono esserle per determinate condizioni. Cioè, tu non puoi dire: non posso pagare questi debiti che io ho contratto perché volevo farmi 10 vacanze alle Maldive. Cioè, il tema no. È la situazione pregressa deve essere di una certa natura. È uno dei criteri fondamentali, il criterio della meritevolezza. Non è ovviamente un'indagine di tipo morale, ma è un'indagine effettiva, cioè appunto il debito deve essere dipendente da una causa particolarmente meritoria o comunque da una situazione che si è venuta a creare in un momento successivo, come quelle che citavo prima, la malattia personale di un familiare, oppure situazioni di licenziamento, perdita di lavoro, riduzione di orario. Queste sono le cause principali. A queste si aggiunge un eccessivo diciamo così, un'eccessiva disposizione del credito, e quindi qui è una corresponsabilità anche di alcuni istituti finanziari che in maniera un pochino più leggera hanno concesso il credito anche a chi si trovava in particolare difficoltà, e come dicevo prima, ricorrere a un ulteriore prestito quando si è già in difficoltà non è mai la soluzione. Quindi insomma, se la finanziaria, l'ultima finanziaria alla quale vi siete rivolti perché avevate bisogno di un prestito, improvvisamente vi manda l'ennesima carta di credito a casa da poter attivare, esatto, noi vabbè, diciamo non capita spessissimo in Italia, noi non siamo, però no, perché vanno a caccia sempre un pochino dei più deboli che poi... o almeno come diceva lei, avvocato, fate un controllo sulle spese che avete in giro, sugli altri debiti che avete contratto, dal mutuo a acquisti a rate e così via, insomma. Sì, purtroppo si tende a utilizzare degli strumenti per tamponare. In realtà la situazione bisognerebbe prenderla in esame integralmente per poter ridurre effettivamente il proprio debito. Quello che diceva è corretto, la legge non è la panacea di tutti i mali e va fatta tenuta ben presente soltanto per chi effettivamente vuole cambiare la propria situazione ma si trova in buona fede. Quindi voglio pagare, non mi trovo più nelle condizioni di poterlo fare come prima, ma voglio adempiere alle mie posizioni debitorie. Naturalmente, ricordiamo che prima di attivare la procedura di esdebitazione c'è anche un'altra modalità per razionalizzare un po' la situazione del proprio debito, che è quella del consolidamento. Magari, dottoressa Scoppetta, se ha un attimo di tempo, ne parliamo dopo il nostro solenne appuntamento del lunedì di quest'ora. Se ha piacere. Con piacere. Esatto. Dottoressa Scoppetta, le faccio sentire una cosa molto divertente che tutti i lunedì avviene a quest'ora. Allora, Deborah, quest'oggi però abbiamo una variante, perché il sonetto non l'ho scritto io. Davvero? No, me l'ha inviato un ascoltatore gentilissimo. Hai attivato una pletora di autori che ti sostengono. Gli endecasillabi si fanno strada e mi fa piacere, è un ritorno all'endecasillabo, che è un verso molto nobile nella nostra letteratura. Sì. E allora, ringraziando Oliviero Tacchella, ma certo, che ci ha dedicato questo sonetto, io vado a darne lettura. Vai. Udir la voce del Meazza in radio, di mezza mane, insieme alla Rosciani, trattar materia oscura a noi paesani, è come il gol segnato in uno stadio. Soavi voci col dire, non col gladio, i bravi conduttor de temi arcani, rendon le banche, loci disumani, teatri costruiti dal palladio. Due di denari? A scopa son preziosi, con l'asso e il tre son base ai Napoleoni. Qui di parole chiare affatto ricche, che il verbo vostro or vinca gli accidiosi lavorator di banche e istituzioni, sì ch'io non peschi più alcun due di picche. Di denari. Caro Babbo Natale, caro ciliegione svolazzante, per niente abominevole panzone delle nevi, caro Babushka per i russi, caro Bob per gli americani, per gli inglesi Simply Red, per i francesi Homme Michelin Rouge. Allora, Babbo Natale perché? Perché è il momento di parlare di giocattoli. Esattamente. Allora, intanto aspetta che c'è Graziano che su Facebook ci scrive, a proposito di bambini e nipoti, regalare ai nipoti un fondo pensione aperto. Il figlio deduce il nipote. Il nipote potrà utilizzare infatti, l'importo per i suoi studi. Ecco. Oppure per la sua pensione. Aiutiamo i nostri figli a rendere più sicuri il futuro dei loro figli. Bella la considerazione del nostro Graziano. Peraltro ricordiamo che a presto, con il Nuovo Risparmio, con la guida del Sole 24 Ore, ci sarà proprio la guida a risparmio per i figli. Per i figli, sì. E penso ad inizio gennaio faremo anche una puntata su questo. Adriano invece scrive: per i regali, aceto balsamico e nocino, tutto di mia produzione e amici e parenti. Caro Adriano, lei da oggi è il nostro nuovo miglior amico, un grandissimo. Insomma, prodotti della vera tradizione, questa, direi. Sì, e poi devo dire, questa solidarietà generazionale, addirittura non solo nella generazione immediatamente successiva, ma dal nonno al nipote, mi sembra molto lungimirante e anche molto bella in un periodo di Natale. Allora, Natale, periodo di giocattoli, però. Assolutamente, su questo non si transige. Enrico Ercole, Asso Giocattoli, buongiorno e benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a tutti. Che cosa ci racconta Asso Giocattoli? Insomma, cosa stanno facendo le famiglie italiane per accontentare i più piccoli quest'anno? Quali sono le tendenze più evidenti che state riscontrando? Insomma, si destreggiano come tutti gli anni a cercare di capire cosa i loro figli e i loro bambini vogliono scrivere sulla letterina di Babbo Natale. Le tendenze sono confermate, quelle degli ultimi, diciamo così, degli ultimi anni. Vanno per la grande, per la maggiore, quei prodotti che hanno un riferimento soprattutto cinematografico. Per cui giochi anche molto tradizionali, però declinati secondo le uscite al cinema e i grandi successi cinematografici, per cui si va dalla pista di automobiline, che è un grande classico, o dal set di costruzioni, però declinato secondo Cars, Star Wars, piuttosto che gli ultimissimi successi cinematografici. Questa è sempre un po' la tendenza. Voi riuscite anche a monitorare i budget di spesa, quanto spendono le famiglie? Adesso ovviamente non le chiedo un dato preciso, anche perché Natale non è ancora arrivato e quante spese ci saranno nei prossimi giorni ancora non possiamo stabilirlo, però riuscite anche a fare un monitoraggio dello scontrino medio, Ercole? Sì, diciamo di sì. Poi bisogna distinguere molto, perché tante cose che il pubblico reputa essere dei giocattoli, tipo per esempio i videogiochi, non vengono monitorati dal nostro settore, che resta sui giocattoli, con una certa attenzione ai giochi elettronici, che però non sono videogiochi. Quindi diciamo che il monitoraggio da questo punto di vista è sempre un po' difficile da prendere con le molle, però sì, è un monitoraggio che viene fatto. Io sa che sono un po' l'uomo del fisco e delle norme, qui a due di denari. No, perché allora, ti ho visto fare gesto con la macchinina alla pista per le automobili. La macchinina era un momento di nostalgia per la mia infanzia. No, volevo chiedere invece a Ercole il riepilogo un po' delle regole per quanto riguarda la sicurezza, perché poi i giocattoli vanno in mano ai bambini e allora ci sono delle norme molto precise europee e poi anche italiane. Certificazione. Cosa dobbiamo guardare nella scelta? Cosa dobbiamo guardare prima di dare il giocattolo al bambino, specialmente se molto piccolo? Sì, allora diciamo poche regole ma chiare. Bisogna metterci molta attenzione, nel senso che il bambino poi con il giocattolo sviluppa un rapporto importante, perché giustamente ci deve giocare, e quindi non bisogna prendere sotto gamba la sicurezza del giocattolo che andiamo a regalare. Allora, innanzitutto l'acquisto. Il momento dell'acquisto deve essere valutato con molta attenzione. Va bene l'acquisto online, però diciamo che l'acquisto in un negozio di giocattoli certificato, in una catena celebre che importa in modo serio, in modo certificato i prodotti, già è un primo passo, perché così avremo un punto di riferimento nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, nel momento in cui sbagliamo il giocattolo e dovesse essere fallato, abbiamo già un primo punto di riferimento. Importantissimo è che sulla confezione sia sempre indicato l'indirizzo, il numero di telefono e il sito dell'importatore o del produttore, in modo tale che se succede qualcosa, se abbiamo dei dubbi o qualsiasi questione da risolvere, abbiamo un numero, un'entità a cui fare riferimento. È importantissimo guardare il marchio CE, la famosa CE che denota che il prodotto è stato realizzato seguendo le norme europee, che sono rigidissime. Sappiamo che nei prodotti contraffatti molto spesso questo logo compare, però compare in una forma diversa. È riconoscibile quindi. Sì, sul nostro sito www.assogiocattoli.it trovate uno schemino che vi dà, detto così può essere un po' complicato, però in realtà è facile riconoscere quello vero da quello contraffatto. Bisogna guardare che la C, completando il cerchio, cioè diventando una O, vada a toccare appena appena la E vicina. Nel logo contraffatto la C e la E sono molto ravvicinate e completando la C la O andrebbe a sovrascrivere. Quindi, la insomma, E. Nel marchio ufficiale si sfiorano appena, invece nel marchio contraffatto insomma si baciano proprio completamente. Marchio... Può sembrare un po' complicato, però non rimandiamo al vostro sito per un confronto, insomma, e poi naturalmente valgono le regole precedenti. Allora probabilmente se c'è un marchio CE contraffatto può darsi che non ci siano indicazioni chiare sull'importatore, sul distributore, non ci siano indirizzi di sorta dove rivolgersi. Di solito le cose vanno insieme. Esattamente, bisogna stare attenti anche al prezzo. Quando vediamo che un giocattolo che troviamo magari da qualche parte ha un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che ci hanno detto amici o che abbiamo visto su negozi online oppure in altri negozi, vuol dire che sotto sotto c'è qualcosa. Potrebbe esserci uno sconto onesto di magazzino, però potrebbe esserci anche qualcosa che non quadra per quanto riguarda l'importazione. Una cosa molto importante da dire è non scambiare il made in China per una garanzia di non conformità del prodotto. Questo purtroppo è una cosa che fanno in molti, ma cosa ci sono aziende che producono in Cina ma che producono nel pieno rispetto delle regole dell'importazione europea. Ecco, questo è un errore da non fare. Ecco, quindi cosa significa? Che se in una confezione di un giocattolo che magari abbiamo anche ben pagato, comprato da un rivenditore assolutamente accreditato, cioè il Made in China, questo non significa che sia fatto da mani disattente, no? Cioè, qual era esattamente il messaggio? Perché molti produttori... Sì, esattamente appunto... questo. L'importante è il rispetto delle regole, non tanto il luogo di produzione, quindi non tanto il made in, ma che il made in poi si associ, se proprio uno vuole poi preferire il made in Italy, anche per ragioni di sostegno all'industria nazionale, benissimo. Non, quello che lei dice, Ercole, è non scambiamo un'indicazione di un made in di un altro paese, esatto, come un'indicazione di ci fallaccia. Potrebbero essere dei prodotti targati made in Italy, prodotti al di fuori delle regole, delle comuni, delle normative. Certo. Allora, grazie ad Enrico Ercole di Assogiocattoli. Gli ultimi 30 secondi li concedo all'avvocato Francesca Scoppetta del progetto Pro d'Italia. Ci si indebita anche per i figli in Italia? Che cosa potete rilevare voi con la vostra attività? Assolutamente, anzi i figli sono uno degli elementi primari. Ci si indebita per i figli sempre perché alla fine, soprattutto in questi periodi, i regali, lo diceva forse l'ascoltatore di prima, il nonno che pensava ai nipoti, è proprio così. Alla fine sono i nonni che danno ai figli, ai propri figli, i soldi per comprare i regali ai loro stessi figli, quindi in pratica pensano loro ai nipoti. Questo perché, meno male da un certo punto di vista, che c'è l'aiuto generazionale, altrimenti la situazione di crisi sarebbe sicuramente molto più evidente di quanto già non lo sia. Grazie, noi questo lo riscontriamo. Sì, grazie, grazie all'avvocato Francesca Scoppetta, a tutti gli ospiti che sono stati con noi questa mattina. Salutiamo con affetto Alessandra, che su Twitter ci scrive: con 80 euro di spesa ho fatto 40 pacchetti di biscottini natalizi fatti in casa, ve ne mando un assaggio virtuale. Ci manderà la foto, infatti, sì. Allora assaggeremo la foto. Grazie Mauro, allora ci vediamo domani con la super puntata Serpente Corallo. Grandi sorprese domani. Grandissima, a domani.